1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, 7:17 minuti. Forza ragazzi, che è venerdì. È venerdì, caro Peter Bescapè. Lavori questo weekend? Sì, con un sorrisino. Beh, però è un sorrisino, dai, di quelli buoni. Sembrava più un sorrisino drammatico, invece. Dai, dai. Ah, sei qui con Oscar in diretta. È grande anche Oscar al lavoro. Domani lo troveremo, tra l'altro, più avanti. Ovviamente, come di consueto, alle 8:15 avremo ospite oggi, cari amici, Hervé Falciani. Ve lo ricordate? È quello che trafugò alla banca HSBC in una filiale tutti i conti correnti in Svizzera e ha creato la cosiddetta lista Falciani. E ora vive, insomma, in una zona che non possiamo neanche svelare perché non è una vita serena, tranquilla, dopo aver fatto tutto questo. E sarà il nostro ospite a parlare dei Panama Papers, una vicenda che ricorda molto quella di Falciani. Più avanti, intanto andiamo a leggere i giornali. È venerdì e l'ho già detto tipo 400 volte, è l'8 aprile. Intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre su che cosa? Lo spread balza a quota 132, borse in calo con le banche. Questa è l'apertura del Sole. Mentre la questione dell'inchiesta di Potenza, altri dettagli, Corriere della Sera, tutte le pressioni sui ministri, richieste a Del Rio, citate Pinotti e Boschi. Gemelli dice l'antimafia da eliminare. Gemelli, il compagno dell'ex ministro Guidi. Repubblica, Del Rio sotto attacco, dossier su di me, trame contro lo Stato. Il Fatto Quotidiano rivela Mister Guidi in commissione mentre parlava la Boschi. Succede nel 2014, nel novembre. Libero invece titola così: covo di vipere, i ministri si odiano. Il Messaggero, appalti, le pressioni sui ministri. Ecco invece i primi 100 nomi e l'apertura del giornale sui Panama Papers. La Stampa sulla questione immigrazione: Vienna, 300.000 migranti dall'Italia. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre Renzi, non ci ricatta nessuno, è quello che diventa il titolo di prima pagina dell'Unità. Ma partiamo proprio dai Panama Papers, i nomi l'abbiamo detto. Tra l'altro mi ha molto colpito quello che scrive il Manifesto. Effettivamente sono tantissimi i dati, 11 milioni e mezzo. Sapete quanti anni ci vorranno per analizzare fino in fondo tutti questi dati? 30 anni. Ma come 30 anni? Ebbene sì, il Manifesto scrive: ci vorranno almeno 30 anni per decifrare la montagna di documenti che una fonte anonima ha consegnato al giornale tedesco Süddeutsche Zeitung. Sono i cosiddetti Panama Papers, che riguardano 76 paesi, 106 redazioni che poi sono state coinvolte nel progetto del Consorzio Internazionale di Giornalisti Investigativi, partiti dal Süddeutsche Zeitung, 11 milioni e mezzo di dati, 30 anni. E ovviamente il titolo del Manifesto è anche questo: WikiLeaks, un'operazione della CIA. Della CIA. Beh, è una cosa che dicono alcuni. Intanto i nomi. Come detto, oggi l'Espresso è in edicola, il settimanale. Ci sono tutti i nomi, dalla A alla Z, dei 100 italiani. Ecco i primi nomi. Ci sono 800 connazionali. Sono finanzieri, manager, imprenditori, avvocati, stilisti, sportivi, mafiosi. In esclusiva ecco il primo elenco, comprese le risposte che hanno voluto dare. Qualcuno si è rifiutato. Tra le risposte ci sono anche, e sono smentite, beh, i nomi più celebri almeno dello Star System, Carlo Verdone e Barbara D'Urso. Entrambi hanno smentito tramite gli avvocati. Verdone, nessun conto. Scrive l'Espresso: c'è il verbale di una riunione del consiglio d'amministrazione della società con sede a Panama. Questo nei Panama Papers, datata 1 ottobre 2009, ed eccolo il documento pubblicato da Repubblica. In quell'occasione venne conferita a Verdone una procura a operare per conto della stessa società. E nel secondo documento ci sarebbe il passaggio di proprietà a favore dell'attore e regista della capitale, del capitale della Atilit, questa società, trasferimento datato 16 giugno 2010. Infine un terzo foglio dimostrerebbe la revoca di questa procura avvenuta il 29 settembre 2014. Gli avvocati però dicono il nome di Verdone è stato inserito nell'articolo sui fatti di Panama dopo che il giornalista aveva chiesto anticipatamente un commento sulla notizia in uscita. Quindi, proseguono i legali, è ignoto su quali fatti e circostanze ci sia basati e finché le prove non saranno mostrate l'accostamento di Verdone ai fatti pubblicati sull'Espresso non è e non sarà credibile, perché l'attore non è titolare di nessun conto o proprietà all'estero neanche per interposta persona. Ovviamente si è scatenata invece già l'ironia della rete. Beh, devo dire che Gasparri in questo, uno che non è mai molto simpatico, ma in questo caso Gasparri ha detto che va a fare il nuovo cinepanettone Natale a Panama. Vabbè, ci stanno le battute, potete immaginare. Anche Barbara D'Urso, Carmelita D'Urso, la stavo chiamando come è conosciuta su Twitter, Barbara D'Urso spiega la sua posizione affidandola anche lei agli avvocati. Barbara D'Urso, informata dell'inchiesta, aveva diffidato formalmente l'Espresso dal divulgare notizie che apparivano lacunose e gravemente lesive della sua immagine. La sua situazione è questa. La signora D'Urso aveva chiarito che la società era stata aperta solo a fini di operazioni immobiliari da compiere all'estero, operazione che non si sarebbe poi più concretizzata. E quindi Barbara D'Urso anche lei smentisce. Chi invece non smentisce è Cameron. Oh ragazzi, Cameron ha detto, ha ammesso, aveva soldi nella società di papà. Il premier britannico è in difficoltà a rendere pubblici i suoi redditi e chissà, potrà per questo subire contraccolpi, questo lo vedremo. Chi potrebbe subire contraccolpi invece, salto all'altra notizia del giorno, è Bruno Vespa, perché c'è la polemica sulla sua intervista a Riina Junior, porca miseria, mi è scappata ancora, mi inchiodano su questo Junior, perché lo dico all'americana come direbbero ad Harvard. Junior, vabbè, Junior è italiano, come è latino, insomma, è quindi Junior. Quindi, faccio io la mia polemica personale, summit, come dico, e non summit, però nessuno farà battaglia su questo. Vabbè, chiusa la questione Riina Junior, è più importante la questione Rai, Riina. Perché i giornali raccontano di un campo dall'orto molto arrabbiato con Vespa, Bruno Vespa. C'è anche un colloquio di Liana Milella con Piero Grasso, presidente del Senato, magistrato antimafia a lungo. Immagino gli applausi dei mafiosi per la fermezza dimostrata in TV dal figlio di Riina. Questo dice Piero Grasso, dopo 48 ore di collera mista ad amarezza. Proprio lui, il giudice che ha motivato la condanna nel maxi processo a Cosa Nostra, lui ex procuratore antimafia, lui il magistrato che Riina avrebbe voluto far saltare in aria nel 93 con il tritolo piazzato in un tombino mentre andava a trovare la madre, ecco, proprio lui si deve vedere tutto questo. Grasso esterna la sua sorpresa in privato e in pubblico. Mercoledì, quando torna a casa da cena, e la moglie Maria prova a insistere per vedere l'intervista. Avendo visto le anticipazioni, lui ribadisce il no, perché conoscendo la mentalità di quel mondo che ho combattuto per tutta la vita, già mi immagino come andrà a finire. Si risolverà in una prova di forza in cui a vincere sarà il codice dell'omertà e del rispetto mafioso. E questo dice Piero Grasso, mentre vi segnalo sempre su Repubblica l'iniziativa di una libreria di Catania, Maria Carmela Sciacca, che è la titolare di questa libreria, che dice con la sorella Angelina: non venderemo il libro di Riina e fate tutti come noi. Dopo aver visto Porta a Porta non abbiamo avuto dubbi e hanno affisso sulla loro libreria questo messaggio, messo anche sulla bacheca Facebook. Il cartello è proprio questo: noi non venderemo il libro. Qui non si vende il libro di Riina Junior, eccolo qua. Comunque, anche Giovanna Cavalli sul Corriere della Sera racconta la tensione con Verdelli per l'ok campo dall'orto che fa il mediatore, insomma tutti i retrosceni di come si è arrivati poi alla messa in onda di questa intervista. Vabbè, saltiamo e saltabecchiamo in alcune notizie che mi hanno abbastanza incuriosito. La prima è questa, ne abbiamo già parlato anche alle 6.30, riguarda il Boccia Galimberti. Chi è il Boccia? Chi segue il calcio lo sa, è il capo ultra dell'Atalanta, uno dei capi ultra dell'Atalanta, che per la verità nella vita ha ricevuto un po' di DASPO, cioè di divieto entrare allo stadio, ma come scrive Libero, allo stadio non può entrare, al Senato sì. Perché il Boccia Galimberti, insieme ad altri tifosi di altre squadre di calcio, si è messo la sua bella giacca e cravatta ed è andato al Senato a partecipare a un convegno sulla sicurezza negli stadi, promosso da Gianmarco Centinaio della Lega, dal senatore del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, dal deputato del PD Mario Tullo, dalla senatrice di SEL Loredana De Petris, con l'ex parlamentare dello stesso partito Paolo Cento, grande tifoso della Roma. E allora col Boccia in prima fila, anche Malagò, presidente CONI, dice: ma come, fa stupore che chi è sottoposto a regime di sorveglianza non può entrare in uno stadio. E poi Malagò lascia la frase in sospeso, e poi invece può entrare giacca e cravatta al Senato. Eccolo qui, allo stadio non può entrare, al Senato sì. E va bene, mentre è riapparso Galan, sempre alla Camera, e sono sempre su Libero, pagina 10. Galan torna alla Camera col dottore, è andato alla giunta della Camera che dovrà decidere sulla sua espulsione di fatto da parlamentare. Si è difeso così: ho perso 22 kg in carcere in 6 mesi, un'esperienza terribile che non augura nessuno. E poi ha detto: non fatemi decadere, io ho solo patteggiato perché fui costretto, non avevo alternativa, ho patteggiato perché così avrei potuto difendermi dalle accuse che mi hanno fatto per tornare a una vita normale. Ha parlato dell'arresto, del carcere, esperienza assolutamente devastante per la vita, e poi insomma alla fine dice: non fatemi decadere, ma la giunta vota per l'espulsione. Ora però ci vorrà, credo, il voto, anzi sicuramente il voto dell'aula parlamentare sull'espulsione di Galan. Vabbè, ma andiamo all'articolo che mi fa più stare della giornata. E oggi guardate il premio Mani sul volante, da tenere ben strette, come dico sempre io, se avete delle tazzine di caffè bollente appoggiatele per un attimo, anche oggetti contundenti che poi magari movimenti improvvisi così ci imputate qualche tagliuzzamento. No, assolutamente. Ma quello che ho letto sul Secolo XIX, il caso portato da Sondra Coggio a pagina 11, eccolo qua: il disabile che non può entrare in casa sua. Succede alla Spezia, dove un signore, si chiama Roberto Bolleri, è uscito di casa popolare regolarmente assegnata a lui, è tornato e gliel'avevano occupata. E beh, che succede? Uno chiama la forza pubblica, dice: scusate, sono pure disabile, ho diritto, la casa è assegnata a me, sgombrate. No, per la legge bisogna attendere almeno 3 mesi. Ed eccolo qui, gli hanno occupato l'alloggio perché gli abusivi hanno bambini, poverini, una famiglia di bambini. Hanno bambini e quindi non si possono. La legge protegge i bambini, è una cosa bella, è una cosa fondamentale. E lui ora è disperato: in questa casa vivo dal 2003, prima c'era mia madre, sono rimasto solo quando è morta, pago l'affitto, sono l'assegnatario, ho il contratto regolare. Eccolo qui Roberto Bolleri, fino al 18 marzo aveva la certezza di una casa popolare. Quel giorno qualcuno si introduce, forza la porta d'ingresso. E lui, per rientrare, ha scoperto che la legge impone di fare denuncia e aspettare almeno 3 mesi, se ti va bene, almeno 3 mesi, perché l'autorità giudiziaria deve accertare, raccogliere documenti e poi sentenziare. E a lei attende, c'è un comitato che sta cercando di aiutarlo, un comitato nato, sorto per cercare di dargli un alloggio, il suo, ridargli il suo alloggio. Ma che paese siamo? Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Milan, quante chiacchiere che dite al mattino. Ah, storica questa, il nostro amico napoletano che insieme al fiorentino è scomparso, il fiorentino, in segreto. Fiorentino, oh fiorentino, dove sei? Toscano, come, dove sei finito? Il fiorentino, allora, fatti vivo ancora, nuovamente, che ci manchi, mi manchi tantissimo. Allora, intanto, dacci oggi la nostra intercettazione quotidiana, come ho detto ieri. Ieri era la sguattera del Guatemala, chiaramente. Tra l'altro, ragazzi, cioè, oggi sul Secolo XIX c'è una dipendente colf del Guatemala che scrive al ministro Guidi, all'ex ministro Guidi. Cioè, capite il surreale che stiamo lambendo. Oggi dacci oggi l'intercettazione quotidiana pubblicata su tutti i giornali, quando il compagno dell'ex ministro Guidi, Gianluca Gemelli, al telefono parlava di Sicilia, di antimafia, si rivolgeva e parlava di Fava, Claudio Fava, figlio del giornalista ucciso dalla mafia. Quando parlava della Chinnici, assessore, figlia del magistrato Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia. Quando parlava di Lucia Borsellino, figlia di Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia. Sentite qui, Fava è amico della Chinnici, tutti questi dell'antimafia, sai, tutti questi. Il giro dell'antimafia, questi qua. Guarda, quelli che utilizzano i cognomi dei martiri per fare carriera fanno ancora più schifo degli altri. E poi arriva il carico da 90. Testuale. L'ho sempre dichiarato, lei, la Borsellino, questa è gente che proprio andrebbe eliminata. Eccolo qua, il titolo anche di Repubblica, a pagina 2. Gemelli al telefono, Borsellino andrebbe eliminata, visto che si è tanto parlato della presunta e mai dimostrata e mai trovata intercettazione in cui Rosario Crocetta ascoltava una persona, un interlocutore al telefono che diceva una cosa simile. Beh, qua invece, insomma, chissà, dai brogliacci delle intercettazioni proprio c'è, la Borsellino andrebbe eliminata, Gianluca Gemelli. Tra l'altro si racconta appunto del clima che c'è all'interno del governo. Libero titola, com'è che dice, un covo di serpenti, si odia, i ministri si odiano. Beh, anche il Corriere della Sera in prima pagina mette tutte le pressioni sui ministri e poi soprattutto c'è questa cosa del presunto dossier nei confronti del ministro Delrio. Quando Gemelli al telefono dice ho le foto di lui che si incontra con gli 'ndranghetisti a Cutro. È una vicenda su cui Delrio già in passato ha spiegato cosa è successo. Cioè Reggio Emilia, di cui lui è stato sindaco, è gemellata con il paese calabrese di Cutro e lui è andato una volta, c'è anche una foto che oggi Libero pubblica a pagina 2 di lui con la fascia tricolore, la sindaco di Reggio Emilia insieme alla fascia tricolore del sindaco di Cutro e altre persone a Cutro. E su quella visita ecco che ci sono annunci di possibili foto. Delrio, intervistato oggi da Repubblica da Claudio Tito, a pagina 3 dice in maniera molto secca: a questo punto voglio sapere se davvero pezzi dello Stato tramano contro altri pezzi dello Stato. Voglio sapere se davvero un carabiniere ha preparato dei dossier falsi contro un ministro della Repubblica. Ho presentato su questo un esposto alla Procura di Roma perché voglio la verità. Non ho nulla di cui temere. A Cutro sono andato da sindaco di Reggio Emilia. Le due città sono gemellate. Ero lì con la fascia tricolore. Sono andato a una cerimonia. Per qualche metro ho seguito la statua locale della Madonna. E basta. Han provato a invischiarmi in quella roba, ma non hanno trovato niente perché era impossibile trovare qualcosa. Mai un avviso di garanzia. Ma ora voglio sapere se questo dossieraggio è vero oppure no. Voglio sapere se la gente può fidarsi delle istituzioni. Poi, se vengo attaccato da un comitato d'affari, beh, per me è un onore, una medaglia da mettere sul petto. Questo dice in pratica Delrio, poi aggiunge altro in questa intervista. Comunque, veleno da un comitato d'affari, lo sfogo e l'esposto del ministro, anche Sergio Rizzo lo racconta sul Corriere della Sera. In tutto questo, ieri c'è stato l'interrogatorio nei confronti del ministro Guidi, dell'ex ministro Guidi, che dice: io, questo mi hanno detto i magistrati, sono parte offesa. Interrogata per 3 ore, non ha rilasciato ovviamente dichiarazioni pubbliche sull'interrogatorio, ma dice: io mi sono comportata sempre da ministro trasparente. Intanto il Fatto Quotidiano fa sapere che, lo scrive Primo Di Nicola insieme a Carlo Tecce a pagina 3, in commissione, quando parlò la Boschi, era il 27 novembre 2014, Commissione Affari Costituzionali al Senato, era presente anche Gianluca Gemelli, compagno dell'ex ministro Federica Guidi. È il titolo di pagina 3, in commissione parla la Boschi e c'è anche Gemelli. Questo, secondo il Fatto, farebbe, diciamo, capire il lavoro da lobbista, diciamo, per cercare di fare pressioni. In tutto questo, e di tutto questo parla Pierluigi Bersani, un po' arrabbiato. Pagina 8 del Corriere della Sera. Scoperchiato il vaso di Pandora, i ministeri sono ormai espropriati. E poi dice: voterò il no al referendum sulle trivelle. Vedo un sistema di decisioni in circuiti troppo stretti e spesso extracorporei. Inizia così Bersani, che poi riguarda le intercettazioni dice: guardate, mi ricorda Dino Risi e i mostri. Questo signore Gianluca Gemelli, che su Twitter spara contro la casta e poi lucra sulla sua relazione col ministro Guidi per prendersi dei subappalti. Poi però Bersani parla anche di Renzi. Alla domanda "la Boschi deve dimettersi", dice: le colpe dei padri non ricadono sui figli, risponde Bersani. Però io non reggerei a un disagio di questo genere. C'è da dire che io sono di un'altra generazione, e adesso ce n'è ben altra. E mi stupisco di chi dice che non abbia la statura del leader Renzi. Renzi sin dall'inizio disse: prima di me il diluvio. Dunque non intendeva rottamare, ma sradicare. Rottamare Bersani è un gioco da ragazzi. In nome del collettivo, come si è visto, si rottama da solo. È a sradicarlo da quei valori che ci vuole un fisico che Renzi non ha, perché come Bersani nel PD ce ne sono a migliaia. Questo Bersani, intervistato sul Corriere della Sera, pagina 8, da Monica Guerzoni. A proposito del PD c'era una notizia, questa mi ha incuriosito, ma sapete, ce ne siamo occupati anche noi, della sede del PD a Roma di Via dei Giubbonari. Il TAR ha detto che va restituita al Comune di Roma. E che fa il PD? Praticamente si barricano, cioè fanno muro, dicono: no, noi non lasciamo questa sede storica. Barricati, lasciate la sede, ma il PD resiste ai giudici. Ragazzi, qua con le case va così, va così. Va bene, dai, Mauro Meazza, barricati anche tu, sei a Panama sempre. Sì, sono a Panama, buongiorno Alessandro, quindi buongiorno. Facciamo una conversazione breve. Vedo che però mi sembra che ci sia anche un po' troppa gente qui a Panama. Infatti. In ogni caso, sul Sole 24 Ore di oggi, tra le altre cose, ti segnalo questo fatto che qui oramai si va agli sgoccioli, perché c'è questo CRS, cioè il Common Reporting Standard. Wow. Che hai preso nota? Ecco, il quale prevede sostanzialmente una trasparenza da parte degli stati. Quindi prima o poi bisognerà che le notizie trapelino, non per appunto queste inchieste giornalistiche, ma proprio anche tra le varie amministrazioni fiscali. Quindi invito tutti, anche quelli che sono con me a Panama adesso, a provvedere per tempo. Sai che ieri ti parlavo del patent box? Come no? So che non scalda il tuo cuore, non capisco non è vero, perché. Non è vero. No, ma vedo che non lo capisco, che non scalda il tuo cuore. Vabbè, comunque è stata diffusa la circolare, molto attesa dall'Agenzia delle Entrate, e oggi appunto ne riferiamo sul Sole 24 Ore, naturalmente, caro Alessandro, nelle pagine di norme e tributi. Ho avuto un attimo di è registrato, ero indeciso. Leggerai religiosamente, così come puoi leggere naturalmente tra le pagine di finanza, che avidamente sempre devi consultare, delle start-up che hanno avuto un buon riscontro da parte delle banche. Ci sono stati, riferiamo oggi, 342 emissioni di prestiti negli ultimi 6 mesi, è un dato positivo per le nuove società. So che tu domenica sarai impegnato, perché ti vedrò a teatro. Sì, certo, al Manzoni. Dirlo? Ma certo. Poi naturalmente mi paghi il caffè promesso per fare questa cosa. Assolutamente, domenica tutti al Manzoni. molto bene. E invece ti faccio allora tanti tanti tanti cari auguri, ma solo per sabato, perché so che quell'altra parola lì. Ma scusa, ma c'è la, mammi la Juve, ma c'è, te resti la Juve? No, fammi no, capire, terresti la Juve? No, ma te lo dico, forse Juve è un po' come scegliere tra la tosse e il catarro per me, quindi preferirei non prendere posizione. Oh, ricordati. Che immagine. Ricordati che oggi sono solo 24 ore, c'è moda 24. Domani, anche se sarai distratto da questioni calcistiche, ci sarà Plus, il settimanale dedicato al risparmio e agli investimenti. E la tosse o il catarro. E ricordati che lunedì, al sole 24 ore, lì alla sede, si svolge tutto lavoro. Certo. Provi tutti i particolari oggi nella prima pagina, nella sezione di nomi e tributi, che tu leggerai religiosamente. Molto bene, ti sei ben portato, proprio nel finale hai rimediato. E allora, tutto ciò premesso, una buona domenica soprattutto, e traffico! Alessandro Milan, il Sinisa Mihajlovic dell'informazione. Evviva, evviva, viva Sinisa, sempre, cara ascoltatrice, grazie. Allora, tema immigrazione, è un tema che magari affronteremo anche lunedì, e attenzione, perché dall'Austria arriva un allarme che ci coinvolge, che peraltro ha fatto arrabbiare il Ministero dell'Interno, almeno questo racconta la stampa. L'allarme è questo: in arrivo 300.000 migranti verso l'Italia. 300.000, è una cifra impressionante, questo è quello che dicono dall'Austria. L'irritazione del Viminale, ecco qua, Amedeo La Mattina lo racconta, pagina 3 della stampa. Al Ministero dell'Interno cercano di mantenere la calma e di non reagire in maniera poco diplomatica, come invece fanno Vienna e Berlino nei confronti di Roma. Ma non è proprio piaciuto il modo con il quale la ministra dell'Interno austriaca, Michael Leitner, si presenta all'incontro col collega Alfano, minacciando la chiusura del Brennero. Gli chiederà come l'Italia si sta preparando al nuovo flusso migratorio e che garanzie vengono date sulla funzionalità degli hotspot nel sud del paese. Il viceministro Bubbico, in realtà, in qualche modo risponde: è Vienna a mandare gli afghani da noi. Insomma, l'Europa, almeno in alcuni paesi, nei paesi più esposti, sta dimostrando, come al solito, ma io lo dico in maniera brutale, una sorta di guerra tra bande che non va bene, non è il modo in cui si deve reagire, perché bisognerebbe reagire in maniera organica a un problema serio, globale, di tutti. E invece spesso gli stati lasciati così da soli, ecco che lanciano questi anche ricatti. L'allarme di Vienna, anche su Repubblica: un fiume di migranti, chiudiamo il Brennero. C'è l'ira anche di Berlino, anche Berlino dice non è questa la soluzione, quindi Berlino che se la prende con l'Austria, l'Austria che chiede chiaramente all'Italia, l'Italia che per ora non se la prende ma vorrebbe prendersela con l'Austria, tutti che se la prendono con tutti, e il risultato è il solito disastro irrisolto. Veniamo alle questioni di cronaca che mi hanno colpito, alcune interessanti come questa. La droga e la scuola. Da tutta la vicenda del Virgilio, l'arresto di uno spacciatore studente all'interno del Virgilio, le polemiche che ne sono conseguite per la polizia che entra nell'istituto, la preside sotto accusa, eccetera. Comunque, da tutta questa vicenda, se volete, marginale, oggi invece però almeno il Corriere allarga un po' gli orizzonti e parla del rapporto un po' più serio e generale. Droga a scuola, l'età che si abbassa. La scuola è la nuova piazza della droga. Un ragazzo su tre sotto i 15 anni ha provato una sostanza stupefacente. È la vera emergenza che va affrontata. Così il sottosegretario all'istruzione Gabriele Toccafondi lo dice chiaramente: la droga a scuola c'è, inutile negarlo. Un mese fa, durante un controllo al liceo Bassi di Bologna, i carabinieri trovano 2 grammi di hashish in un bagno. E anche lì, come al Virgilio, gli studenti non gradiscono e protestano. Ieri, in Val di Fiemme, Trento, un 18enne arrestato per aver spacciato droga a un compagno di scuola minorenne. Insomma, i casi ci sono. E allora, ecco, tutte le statistiche: la droga più utilizzata dai 15 ai 19 anni è la cannabis, ma anche la cocaina, l'eroina, gli allucinogeni, gli stimolanti. E c'è da dire che poi c'è una vastissima, invece, vastissimo uso rispetto alle droghe dell'altra grande emergenza, l'alcol. anzi, se sono, diciamo, il 26% che provano la cannabis dal 15 ai 19 anni, sapete quanti sono tra i 15 e i 19 anni in questa inchiesta, in questo studio dell'Istituto di Fisiologia Clinica che provano l'alcol? Tra i 15 e i 19 anni, l'80,6%. E quindi, insomma, 8 su 10, eh? Comunque, droga a scuola, l'età che si abbassa, questa è un'inchiesta del Corriere della Sera, la trovate. Mentre, a proposito di mafia, visto che abbiamo parlato di Riina, mi ha colpito ciò che scrive il Messaggero a pagina 15. La regione Sicilia aveva fatto ricorso, ma ha perso questo ricorso, per far cancellare alcuni brani di testo di un manuale per libri di scuola di storia. Manuale dal titolo Geo Italia, in cui la Sicilia viene definita in modo abbastanza duro in alcuni passaggi. Viene definita, per esempio, come una regione in cui il potere mafioso ha stabilito sull'isola un clima di violenza che avvelena i rapporti tra la gente, dissangua ogni attività economica e impedisce di governare per il bene della collettività. Racconta di periferie anomane, talvolta persino prive delle fognature, insomma uno spaccato in cui si racconta anche la Sicilia mafiosa. Ebbene, la Cassazione ha stabilito, respingendo il ricorso della regione, scriverlo nei libri di scuola è lecito. Dunque, Sicilia mafiosa, scriverlo nei libri di scuola è lecito. Titolo di pagina 15 del Messaggero, Antonio Calitri racconta questa storia che ha visto contrapposti la regione e un libro di testo. Va bene, dai, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi un'intera pagina. Io non ci volevo credere. Quando l'ho letta, pensate, hanno fatto una ricerca alla prestigiosa Università di Oxford, indagando su 3.200.000 telefonate di uomini e donne. Mamma mia, cosa avranno scoperto in questa ricerca fondamentale alla Oxford University e a cui la stampa dedica una pagina? Hanno scoperto che le donne sono chiacchierone, mentre gli uomini più taciturni. Ma chi se ne frega!